Contro la noia, contro la paura, ascoltiamo Due di Denari con i due antivirus, Meassa e Larosciani. Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Chi è? Amici. Chi? Amici. Voi? E perché? Si può? Favorite, ma non dovevate. Voi l'avete costretto. Io vi avrei costretto. Eh sì, perché col cuore non si scherza, cara signorina. Io l'altra sera ho compiuto un passo che nessun'altra donna era mai riuscita a farmi compiere. E dopo avermi dato una dolce certezza, là, dei mondi in bianco, venite a dirmi scusate tanto, ma non se ne fa niente. Eh no, io non posso rinunciare. Buongiorno Deborah, come stai? Buongiorno, molto bene, sono molto contenta che abbiate raccolto la mia idea di utilizzare Pane, Amore e Fantasia per introdurre la puntata di oggi. Sì, ma perché? Perché hai voluto proprio questo film, diciamo, non nuovissimo, ecco, anche se in questo periodo fa piacere anche rivedere questi grandi classici. Sì, questo si rivede sempre molto volentieri. Non se interessa la popolazione mondiale, è in assoluto uno dei miei film preferiti, ma qui si racconta la storia appunto delle avventure del maresciallo dei carabinieri interpretato da Vittorio De Sica. In questo caso prova a bussare alla porta della sua amata levatrice di cui si è innamorato. E allora tutto questo per introdurre quello che succederà nei prossimi giorni, quando i carabinieri si recheranno nelle case di anziani di età superiore o pari a 75 anni, per i quali appunto riceveranno la delega di andare a riscuotere la pensione. Sappiamo che molti pensionati, per riscuotere appunto il loro assegno pensionistico mensile, continuano ad andare alla posta e spesso riscuotono in contanti, e chiaramente in questa fase particolare è una modalità che si sconsiglia vivamente, anche perché poi c'è il consueto pericolo di incontrare il solito serpente coralle buontempone che magari offre il suo aiuto a questi pensionati che vanno in giro con questo contante in tasca. E questo è un momento particolarmente favorevole per i cialtroni, come sappiamo, per cui c'è stato questo accordo sottoscritto fra Poste Italiane e Arma dei Carabinieri, grazie al quale appunto tutti i cittadini di età avanzata che percepiscono la pensione presso gli uffici postali e che la riscuotono direttamente potranno chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso la loro casa, delegando al ritiro i carabinieri. Adesso il punto è come si fa a far capire come fa un pensionato a farsi avanti, a chiedere questo servizio. Può contattare il numero verde 800 55 66 70, messo a disposizione dalle Poste, o può anche chiamare la più vicina stazione dei carabinieri per richiedere maggiori informazioni. Naturalmente assicuriamoci del fatto, magari può anche essere un figlio che fa questa cosa per conto di un genitore, se questa come dire, questo ritiro in questi giorni è difficile, anche un figlio può non essere riuscito a ricevere la delega, allora si può delegare appunto un carabiniere che farà questo ritiro per conto nostro, per conto appunto dell'anziano. Ma allora, non assicuriamo che venga proprio un De Sica a presentarsi al vostro domicilio, ma ricordiamo il numero verde, mi permetto Deborah di ricordarlo nuovamente. Sì, sì, ricordalo ancora, sì. 800 55 66 70, per avere informazioni su questa delega ai carabinieri. Attenzione ai tentativi di truffa, naturalmente. Quando si reca qualcuno presso il nostro domicilio dobbiamo sempre essere molto guardinghi. È consigliabile anche chiamare la stazione dei carabinieri di competenza, quella più vicina, così ci si mette d'accordo e si evita, si scongiura, si toglie anche un po' di territorio al serpente corallo che sempre alligna, cara Deborah, purtroppo. Lo vedremo proprio come prima notizia nel giornale Radio del Risparmio, ma non diamo anticipazioni perché dobbiamo invece dare un altro tipo di anticipazione, cioè di che parliamo oggi, Deborah? Facciamo il tagliando al decreto Cura Italia, almeno per quella parte che a noi interessa molto, che è una delle parti che abbiamo più frequentemente approfondito qui a Due di Denari: la sospensione del mutuo prima casa. Allora, il decreto Cura Italia appunto stabilisce che viene ampliata la dotazione del cosiddetto fondo Gasparrini, che fino a pochi mesi fa consentiva la possibilità di sospendere il mutuo prima casa per le famiglie in determinate condizioni economiche, ma Cura Italia ha previsto anche che per le partite IVA e piccole imprese praticamente si potesse appunto fare questa richiesta. Abbiamo già spiegato la settimana scorsa che la procedura non era proprio automatica, come in realtà la misura del governo prevedeva, per cui ad una settimana di distanza dall'avvio ufficiale dell'operazione, perché poi la modulistica per fare questa domanda è stata pubblicata sul sito di Consap, Ministero dell'Economia, solo ad inizio settimana scorsa. Allora agli ascoltatori chiediamo di raccontarci se sono riusciti con successo a portare a termine questa operazione, se la banca ha dato loro retta, insomma quali difficoltà oppure in alternativa stanno ancora riscontrando. E chiaramente ancora una volta ci sarà con noi Anna Vizzari di Altro Consumo, pronta a rispondere a tutte le richieste dei nostri ascoltatori. Nella prima parte poi avremo un breve collegamento per occuparci di un altro filone che al momento è però scoperto da qualsiasi tipo di supporto, provvidenza, sì, aiuto del decreto legge cosiddetto Cura Italia, ed è il credito al consumo. Allora, per le domande, soprattutto per quanto riguarda i mutui prima casa, la sospensione dei mutui prima casa, domande e testimonianze, i nostri numeri sono quelli abituali. Comincio da quelli via SMS e WhatsApp: 349-238-6666, questo è il numero per inviarci SMS e messaggi WhatsApp, anche vocali, oppure abbiamo sempre il nostro numero verde 800-24-0024. Cara Deborah, Andrea Roccabella già mi fa gli occhiacci da dietro gli occhiali, perché dice: ma è come... Mamma mia! Eh sì, perché poi c'è dietro anche Lorenzo Nespoli, che come sai è terribile, perché oggi è lui il badante di prossimità e cominciano a fare gestacci, insomma basta, andiamo col giornale radio del risparmio. Non vorrei mai essere al tuo posto, guarda, veramente. Ah, guarda cosa mi tocca sopportare. Vabbè, dai, avete vinto, giornale radio del risparmio. Deborah Rosciani e Mauro Massa risolvono tutti i problemi di cassa. Deborah, insomma, io sono tempi, sì, sì, sono sì, sempre sono disgustato a dover leggere questa roba. lo so. No, sono, guarda, sono disgustato, devo dire che così. Sì, però che in questo periodo, come dire, la maggiore passione di alcuni sia quella di truffare il prossimo, non so perché, forse sono ancora un ingenuo nonostante il capello ormai non più corvino, ohimè. No, allora c'è anche la truffa tramite phishing, come poteva mancare, cioè il serpente collo tramite phishing. Allora l'INPS ci ha informato che in queste ore è partita una campagna cosiddetta di malware, cioè somministrazione, tentativo di inoculare nei nostri personal computer, nei nostri computer, nei nostri smartphone un software malevolo. Un malware che funziona attraverso l'invio di SMS che invitano a cliccare su un link per aggiornare la domanda Covid-19 e inducono a installare un'app che in realtà è un'app malevola, cioè è un software che ci sottrae informazioni quando non addirittura ci blocca il telefonino. Allora, questi SMS non sono inviati dall'INPS. L'INPS non ha inviato nessun SMS con inviti a cliccare su link per aggiornare le domande. Gli eventuali SMS che l'istituto dovesse mai inviare, ma non ne ha inviati, per così dare informazioni, comunque non conterranno dei collegamenti, dei link a siti web. L'unico accesso ai servizi INPS è quello del sito www.inps.it. Imola, Napoli, Pisa, Savona, INPS.it. E tra l'altro l'INPS ci informa anche che adesso il portale funziona regolarmente bene, ne siamo ovviamente lieti. Prego Deborah. Mauro, volevo leggere subito un messaggio che ci arriva da un ascoltatore al 349-238-6666, perché per gli affitti non c'è niente nella moratoria. Allora, ne abbiamo già parlato nelle settimane scorse, ma visto che le richieste su questo tema continuano a crescere, al nostro pronto soccorso, a quello di Due di Denari, noi ritorniamo sull'argomento anche venerdì. Purtroppo non c'è niente, è vero, sono dei contratti che vanno rispettati, ma torneremo ancora a darvi magari qualche indicazione nel caso in cui si possa in qualche modo provare a trattare con il proprietario dell'abitazione nella quale si sta per alleggerire un po' il peso del canone mensile oppure rivedere un po' il contratto, ma il tutto è frutto semplicemente di trattativa privata. Nei provvedimenti recenti non c'è nulla. C'è qualcosa per chi è titolare di un contratto d'affitto per esercizi commerciali, giusto Mauro, per appunto sì, non abitazioni private, ma per chi ovviamente appunto affitta un edificio perché diventa il suo negozio. In questo caso qualcosa è previsto, ma sono tutti temi dei quali parleremo venerdì, quindi ho voluto anticiparlo ai nostri ascoltatori. Allo stesso maniera non c'è nulla nei provvedimenti recenti ancora per quello che riguarda il sostegno ai collaboratori familiari, colf e badanti, e quindi c'è stato ancora una volta, tutte le organizzazioni di categoria hanno bussato alla porta del ministro del lavoro Nunzia Catalfo, che ha convocato un tavolo tecnico proprio per affrontare le criticità che sta vivendo questo comparto. A questo tavolo tecnico hanno partecipato tutte le sigle che rappresentano appunto le associazioni dei datori di lavoro, che sono quattro. Che cosa è stato pattuito sostanzialmente al termine di questo incontro? Intanto è stato rappresentato al ministro Catalfo come i lavoratori regolari del settore sono 860.000 censiti dall'INPS. Si è lamentato il fatto che non vengano considerati alla stregua di chi, seppur per necessità, opera nel sommerso eppure in questa fase ha bisogno di essere supportato, per cui non esistono al momento interventi, sostegni, provvidenze, ammortizzatori e quant'altro, e si tratta appunto di tante persone. Peraltro le famiglie stesse si stanno attivando, lo fanno anche ai nostri sportelli, lo fanno anche alla nostra mail, perché chiedono come poter aiutare queste persone che in questo momento non possono utilizzare, non stanno lavorando presso queste famiglie, hanno quelle regolarmente ovviamente contrattualizzate, sfruttato tutte le possibilità di stare a casa in questo momento, come l'utilizzo delle ferie pregresse e quant'altro, ma oltre non si può andare, queste persone in questo momento appunto sono senza stipendio e quindi hanno necessariamente appunto bisogno di essere aiutate. Vedremo se ci saranno delle novità in questo senso nei prossimi giorni. Mauro. Allora, intanto, come tutti avete probabilmente sentito e come avete riascoltato anche nel giornale radio, è stato ieri varato questo decreto legge, deve ancora arrivare in Gazzetta Ufficiale, cosiddetto decreto legge liquidità. Lì anche possiamo confermarvi che, stando alle bozze finora circolate, non c'è nulla per quanto riguarda il settore di cui vi stavamo parlando, cioè del lavoro domestico, di colf e badanti. Invece tutte le misure che sono contenute nel decreto legge cosiddetto Cura Italia, quello c'è già, è già in gazzetta da un pezzo, si chiama numero 18 del 2020, ecco, tutte le misure per le famiglie saranno analizzate e spiegate domani in un allegato al Sole 24 Ore che troverete domani in edicola, il nostro focus del mercoledì dedicato appunto al decreto Cura Italia e alle famiglie. Invece nel quello del decreto legge che è stato fatto ieri, cara Debora, è previsto, come abbiamo letto, una sospensione per le tasse tra aprile e maggio. Già oggi ne raccontiamo diffusamente, ne raccontano tutti i giornali, naturalmente ne raccontiamo anche sul Sole 24 Ore. Hai altre cose da raccontarmi o vuoi passare direttamente alla nostra sì, pillola di Investire Passo Informati? Passiamo alla pillola. Alla pillola quotidiana di Investire Informati, perché ribadisco un po' tutto lo spirito di questa nostra operazione. Abbiamo tanti consulenti finanziari all'ascolto che ci danno una mano per cercare di orientare anche i risparmiatori in questo momento, ad orientarli appunto in queste fasi di mercato che sono veramente sull'otto volante. Gli ultimi due giorni sono stati molto buoni, ma le giornate precedenti erano state invece molto penalizzanti, sia per quello che riguarda le azioni e le obbligazioni, per cui i risparmi degli italiani hanno oscillato un po' e questo ha generato un po' di preoccupazione tra il mondo del risparmio, per cui abbiamo chiesto ai consulenti finanziari che ci aiutano in genere nel nostro programma di regalarci una pillola al giorno di incoraggiamento. Quella di oggi è di Fulvia Beltrami, Wealth Manager di Azimut. Investire informati. In 30 anni di professione, insieme ai miei clienti, ne abbiamo superate tante. Questa crisi però ha una forza e un impatto emotivo diversi. Coinvolge i due primi pilastri della vita di ognuno di noi, la salute e il risparmio, le nostre sicurezze, il nostro futuro. Siamo tempestati da notizie che aumentano la nostra confusione e per i mercati, come per il virus, le persone si chiedono qual è la cura giusta, quali sono le notizie vere, quali fake. Oggi il mio compito è riuscire a isolare il rumore e aiutare le persone a comprendere che la foresta non smette di crescere e che è possibile non smarrirsi tra gli alberi che cadono. Ad esempio, tanti suggeriscono di stare fermi. Non sono d'accordo, va valutato. Si deve restare sul sentiero, ma non immobili. Dico sempre ai clienti che anche il consulente, come lo psicologo, ha bisogno della loro partecipazione. Per questo consiglio ad ogni investitore tre semplici passi. Primo, pianificare la liquidità necessaria a 12 mesi e confidare che sul resto il fattore tempo produrrà il suo effetto. Secondo, fare un attento controllo del rischio del portafoglio. Ancor più oggi è il tempo della gestione del rischio, non dell'analisi settimanale del rendimento. Terzo, verificare la propria personale tolleranza emotiva al rischio. Stiamo partecipando ad una maratona, non ai 100 metri, e non possiamo arrivare senza fiato a pochi passi dal traguardo. Fatto questo, siatene certi, la volatilità sarà la nostra alleata. E allora Deborah, ti voglio introdurre, voglio presentarti il nostro primo ospite, come sempre esperti di valore mondiale, è Carlo Piarulli, responsabile del settore credito di Adiconsum, per parlare appunto del credito al consumo. Buongiorno, bentornato a Due di Denari, Piarulli. Sì, buongiorno a voi e ai radiospettatori e ascoltatori anche. Allora, Piarulli, il credito al consumo, lo direi subito, così ci togliamo di tono le cattive notizie, non ha al momento alcun sostegno normativo, cioè nel decreto Cura Italia non c'è niente per chi ha in essere un prestito erogato per un acquisto o un prestito finalizzato o anche non finalizzato. Credito al consumo, non c'è nulla. Mi conferma che è così, Piarulli? Esatto, il decreto Cura Italia infatti sospende le rate dei prestiti relativi ai mutui oppure alle sole piccole imprese, ma gli istituti di credito non sono tenuti a sospendere le rate del credito al consumo, prestiti finalizzati e cessione del quinto ad esempio, per cui ogni intermediario si muove in ordine sparso. E come si muovono? Perché allora come si possono muovere soprattutto coloro che hanno chiesto questi prestiti e ce li hanno in corso, Piarulli? Certo, allora diciamo che oggi noi riteniamo che le finanziarie e le banche abbiano un'opportunità nel far capire al cliente che sono vicini in questo momento di emergenza. Dall'altro lato il cliente deve, se è in una situazione che riviene da momenti di riduzione del reddito, diciamo più o meno quelle che sono le caratteristiche per i mutui della casa, no? Cioè gente che non può ricorrere agli ammortizzatori sociali, che ha subito una riduzione temporanea del reddito, che magari è un precario, eccetera. Se in questo momento non sono nelle condizioni di poter pagare le rate del credito al consumo, devono in primo luogo telefonare al loro intermediario, alla finanziaria o alla banca, oppure inviare loro una mail dicendo che sono in una situazione di disagio economico riveniente da una riduzione dell'orario, riduzione dello stipendio, eccetera, eccetera, e chiedere che la loro rata possa essere sospesa per un determinato periodo di tempo. Questa è una, ovviamente come dicevamo prima, non è un diritto purtroppo del consumatore in questo momento, perché non c'è nessun sostegno di legge che obbliga le banche e le finanziarie a fare questo tipo di dilazione. Però è altrettanto vero che, come noi abbiamo ricevuto moltissime richieste da parte dei consumatori sul cosa fare, abbiamo contattato numerose banche e finanziarie, praticamente un po' tutte ci hanno dato questa disponibilità a valutare caso per caso l'opportunità di sospendere le rate facendo pagare soltanto la quota interessi ad esempio in un primo frangente, oppure di di fare proprio una vera e propria moratoria, per cui il prestito viene sospeso per 6 mesi, le rate vengono, il pagamento delle rate vengono sospese per 6 mesi, dopodiché si può riprendere. Diciamo che anche perché molto massima, no. Prego, Deborah. Volevo solo precisare una cosa, che è molto importante che il consumatore si faccia vivo presso il proprio intermediario, perché se tu non lo fai, ma ritieni di essere nel diritto di non pagare perché sei in difficoltà, e questa poi scatta comunque la procedura di recupero crediti ed è sgradevole. Invece, mettendo in qualche maniera, prescrivendo, adesso non mi viene un altro termine, la propria posizione in questo momento, mettendosi in questa condizione di sicurezza, avvisando l'intermediario, diario, secondo me è un passaggio fondamentale, appunto, proprio per denunciare lo stato di difficoltà. Ecco. Anche perché, Pierulli, non è che poi l'intermediario, diciamo, lei ha detto chiedere all'intermediario, come si dice, lecito chiedere, sarà cortesia rispondere, potrebbe anche dire di no, ma dice potrebbe anche dire di sì, risulta, a voi Adiconsum, risulta che ci sia una certa disponibilità. Poi tutto questo va declinato sul territorio e caso per caso, naturalmente. Me lo conferma? Esattamente sì. Diciamo che i casi che noi abbiamo avuto, sia di richieste di prestiti personali fatti presso le banche, sia di prestiti personali o credito al consumo fatto presso le finanziarie, quelle da noi interpellate, ci hanno risposto in questi termini, quindi sia grandi intermediari nazionali, sia intermediari piccole finanziarie, che comunque hanno dato una loro disponibilità una volta contattati, una volta preso atto che vi è una situazione di sofferenza, di disagio riveniente dalla riduzione dello stipendio. A questo punto anche le finanziarie preferiscono verosimilmente in questo momento sospendere le rate piuttosto che dover rincorrere poi a seguire il consumatore. No, magari si può anche fare un'operazione di rinegoziazione, magari uno conserva la possibilità di pagamento, la riduce perché cambia in questo momento la condizione finanziaria della famiglia, ma magari può cercare di negoziare anche una rata un po' più piccolina mantenendo l'impegno mensile. Le soluzioni ce ne sono tante, sono anche intermedie, non è detto che sia necessariamente solo quella drastica di interrompere e procrastinare il pagamento, per cui l'importante, come diceva Pierulli, che ci sia la disponibilità dell'intermediario a considerare ogni singolo caso nella sua specificità, perché ognuno può fare qualcosa di diverso. Infatti, ad esempio, una delle soluzioni adottate è quello di far pagare nell'immediato, cioè proseguire il pagamento delle rate, ma solo per la quota interessi, ad esempio, e quindi vuol dire ridurre moltissimo la rata stessa. In altre situazioni invece c'è stata la disponibilità proprio ad una moratoria nel vero senso della parola, e quindi laddove il cliente ha chiesto 6 mesi di non pagamento è stato accordato. Diciamo che vale molto il rapporto personale, la propria storia, e comunque, come lei ha detto poc'anzi, è indispensabile inviare una mail o telefonare all'intermediario. I siti internet di queste aziende si trovano abbastanza facilmente tutti i riferimenti, scrivendo magari sul portale, sul motore di ricerca, sospensione rate e il nome della finanziaria o della banca, emerge immediatamente tutti i riferimenti a cui fare la richiesta di sospensione, di riduzione, di allungamento dei termini, dei tempi, in funzione della propria situazione personale. Allora, va bene, grazie a Carlo Pierulli, che è responsabile del settore credito di Adiconsum. Naturalmente anche sul sito di Adiconsum trovate delle indicazioni. Deborah, con un pochino... Mauro, prego. Sì, di ritardo, ma magari ricordiamo anche che sul sito di Adiconsum si trova tutta la procedura nel caso di difficoltà molto importanti per aderire al fondo di prevenzione antiusura, che è un'altra modalità sempre per gestire queste situazioni problematiche per persone particolarmente indebitate, perché anche quello... è un meccanismo che continua ad andare avanti. Infatti cerchiamo di non peggiorare ulteriormente, se ci riusciamo, la situazione debitoria laddove è già magari fortemente esposta. Tutto ciò premesso, cara Deborah, con 3 minuti di ritardo, in me dovresti aggiornarci sui mercati, le borse. Andiamoci piano con questi messaggi, eh? Siamo sempre un programma di economia. Due di denari. È il mutuo. Ma questi pensionati, perché non si fanno accreditare la pensione? Io li lascerei senza soldi. È lo Stato che deve aiutare, è lo Stato che deve aiutare persone che non possono pagare affitto, è lo Stato che deve aiutare, lo Stato. La banca mi dice che a me non spetta sospendere il mutuo in quanto ho usufruito del fondo di garanzia Consap quando, diciamo, ho stipulato il contratto. Ma all'epoca, ok, mi avete agevolato e ho preso il mutuo con la garanzia dello Stato, ma io adesso ho il problema di pagare, quindi a cosa mi serve? Sono stato agevolato all'epoca, adesso non mi serve a niente, non riesco a pagare il mutuo. Il mutuo. Caro Mauro, qualche limite dovevano pur porlo, che sia giusto o no, non lo sappiamo, però chi ha già appunto avuto la possibilità di stipulare un mutuo in passato fruendo di questa garanzia pubblica, al momento è escluso da qualsiasi moratoria, però questa moratoria ha aperto la possibilità per tanti altri che sono sempre stati storicamente esclusi da qualsiasi tipo di dialogo con la banca per eventualmente appunto sospendere il finanziamento per l'acquisto della casa. E quindi queste persone vanno considerate. E guarda, noi abbiamo di nuovo scomodato, come avevi annunciato all'inizio della trasmissione, la nostra esperta, una voce oramai, devo dire, quasi una conduttrice amica di Due di Denari a questo punto, ed è Anna Vizzari, che è dell'Ufficio Studi Economico Giuridici di Altro Consumo. Bentornata a Due di Denari. Grazie. Buongiorno a questo punto, colleghi. Sì, siamo un certo, po', diciamo, sarebbe un gran bel acquisto. Lei ci sta aiutando molto, ma perché? Come si sente anche dai messaggi, da qualche selezione dei messaggi vocali che ci arrivano, questo tema del sospendere almeno qualche rata del mutuo prima casa è un problema sentitissimo da una quantità enorme di italiani. Allora, lei già ci aveva segnalato in una delle puntate precedenti, oramai sta diventando un po' una dynasty questa vicenda. Attenzione, perché fatta oggi la richiesta, comunque avete davanti 30 giorni, 45 giorni prima di avere l'ottenimento della sospensione, quindi bisogna essere anche un po' tempestivi, banca permettendo. Molti ascoltatori ci avevano segnalato le inerzie delle banche, per cui si faceva fatica a contattarle o dicevano di non avere istruzioni, eccetera. Adesso però il quadro dovrebbe essere tutto completo. Vizzari, a questo punto a che punto siamo? Allora, diciamo che ancora oggi riscontriamo, come anche voi, i vostri radioascoltatori, dei problemi effettivamente a consegnare in alcune banche la modulistica. Però bisogna ricordare a tutti che in realtà ormai abbiamo tutto, le istruzioni, il modulo, dobbiamo semplicemente seguire quello che prevede la regolamentazione della sospensione delle rate per poter accedere a questo. Quindi chiediamo anche alle banche di rendersi un po' più disponibili in questo momento di difficoltà, anche perché hanno di fronte dei clienti che appunto si trovano in difficoltà nel pagare le rate, che hanno esigenza anche di avere delle informazioni corrette, puntuali e non confuse. Quindi, anche perché altrimenti rientriamo nell'ambito del comportamento scorretto. Quindi raccogliamo le richieste dei clienti, cerchiamo di dare delle informazioni anche sui tempi, magari dire aspettate una settimana e tra una settimana tutto verrà a essere risolto, però le informazioni devono essere puntuali, perché altrimenti si mette nel caos, nella confusione, un cliente che è già in difficoltà. E poi capiamo anche che le banche in questo momento stiano lavorando, almeno molti dipendenti, molti funzionari in regime di smart working, ma non può essere questa la risposta che viene data alle persone. Sono in smart working, in questo momento rispondiamo al telefono, se rispondiamo, e non possiamo darvi delle risposte in termini tempestivi. Secondo me le banche in questo momento devono proprio attivarsi con delle task force molto responsabili, anche se lavorano in remoto, ma le videoconferenze le facciamo tutti, e quindi in questo momento bisogna fare dello sforzo straordinario per dare delle risposte a queste persone, anche perché immaginiamo, poi ci rendiamo anche conto della difficoltà della banca in questo momento chiaramente a rispondere a tutti, perché immaginiamo migliaia di persone che abbiano bisogno di risposte tempestive, ma in questo momento crediamo che, siccome la banca è la parte un po' più forte, che sia quella che è il soggetto che debba mettere in campo uno sforzo più consistente. E ho fatto l'editoriale del giorno, Mauro. Ma so che tu, Deborah, ecco, sulle banche sei giustamente molto sensibile, ti fai anche un po' portavoce di tutti i disagi che ci vengono segnalati, sono tantissimi davvero, non ce l'abbiamo con i bancari, lo vogliamo dire a tutti i bancari che ci ascoltano, che ci scrivono, non è che ce l'abbiamo con voi, il problema è che davvero siamo assediati e da questo punto di vista è quasi un conforto essere un po' d'aiuto a queste persone. Vizzari, ti dico anche che in questo momento, scusami Mauro, se ti ho ricevuto, perché riceviamo dei WhatsApp in tempo reale, anche la disponibilità a dire la sua su questo argomento, noi non lo possiamo far intervenire perché non è il posto giusto, Due di Denari, per far intervenire il mondo sindacale. Lando Sileoni, che è il presidente della FABI, la Federazione degli operatori del settore bancario, e quindi voleva dire qualcosa su questo. Noi ci rendiamo conto anche che le persone che lavorano nell'ambito bancario facciano fatica, però è un po' più faticoso non pagare il mutuo a fine mese ed essere in difficoltà, e quindi è chiaro che tutti hanno le loro, come dire, considerazioni da fare sull'argomento. Non è il tema sindacale stamattina, quindi ci dispiace, non riusciamo a raccogliere appunto l'invito, però lo ringraziamo per essersi candidato lo stesso. Allora, ci sono molte domande ovviamente di tanta natura, ce n'è una in particolare che ci serve a precisare un po' l'applicazione di questa sospensione ex fondo Gasparrini, come si dice, o articolo 56 del decreto legge Coro Italia, insomma quella roba lì che ferma per un po' di tempo. 54, perché 56 è quello delle imprese. Ah certo, infatti l'ascoltatrice, Mauro, cioè, scusate, beh, scusate, ho avuto un momento di defiance, non me lo sarei mai aspettato. È così, sai come diceva il mio professore di latino, quandoque dormitat homerus. Allora lasciamo stare il latino che non è il momento. Elena ci chiedeva, ma allora per un'associazione del terzo settore vale l'articolo delle imprese o quello della Gasparrini? E quello della Gasparrini vale quindi solo per le persone fisiche? Allora, quello delle Gasparrini vale non soltanto per le, cioè vale per i mutui contratti ovviamente come consumatore, quindi l'acquisto dell'abitazione principale, però rientrano nelle categorie coperte anche i lavoratori autonomi e i professionisti che abbiano subito un calo superiore al 33% del loro fatturato. Chi sono i lavoratori autonomi? Sono tutti i lavoratori autonomi. Ieri con il decreto che ha introdotto anche misure per le imprese c'è stata una specifica e quindi un'estensione anche a chi ha una ditta o un artigiano, per esempio, e i professionisti che sono ovviamente fanno un'attività di libero professionista dotati di partita IVA. Ora, il terzo settore in questo ambito rientra se stiamo parlando di un lavoratore dipendente del terzo settore piuttosto che di un collaboratore o di un professionista dotato di partita IVA. Altrimenti il terzo settore può ricevere una sospensione come impresa ex articolo 56 del Coro Italia. Benissimo, abbiamo fatto, direi, Deborah, un utile ripasso anche di questa estensione, certo, e delle modalità innovative che sono state introdotte per l'accesso al fondo Gasparrini. A questo punto, guarda, io anche con qualche secondo di anticipo, ma vedo già il ciuffo di Roccabella che annuisce, e allora ha fatto il ciuffo, gli sono cresciuti i capelli, in realtà io vedo una gran mascherina, occhiali e un gran ciuffo, questo riesco a vedere al di là del vetro. E adesso che sono le 11:45 secondi in punto, io lancio il traffico. Due di Denari. Aiuto, aiuto, ho fatto il mutuo, ho acceso. Aiuto, aiuto, ho fatto il mutuo, ho preso fuoco. Aiuto, aiuto, ho fatto il mutuo. Mauro, rispondiamo all'ascoltatore che ci aveva lasciato il WhatsApp. Vuole chiedere la sospensione, però il suo pregresso era che aveva sottoscritto un mutuo con la garanzia mutuo prima casa garantita da Consap. Anna Vizzari, allora, per chi ha potuto sottoscrivere un mutuo con la garanzia precedente dello Stato non può chiedere adesso la sospensione, corretto? L'ascoltatore se ne lamenta, ma la norma parla chiaro in questo senso. Purtroppo sì, stiamo parlando di circa 100.000 persone che hanno usufruito del fondo di garanzia Consap, quindi è una platea abbastanza ampia. È vero che potrebbero essere anche dei soggetti particolarmente fragili, perché ricordiamo che quella garanzia andava anche come soggetti privilegiati a lavoratori a tempo determinato, magari a gruppi di famiglia monogenitoriali con figli a carico, quindi in realtà stiamo parlando di persone anche in situazioni un po' di fragilità. Però in base alle disposizioni del fondo, chi ha già usufruito di un'agevolazione pubblica, e questo è il fondo di garanzia Consap per l'acquisto della casa, purtroppo non può usufruire della sospensione delle rate. Io non vorrei fare ulteriore confusione, ma anzi vorrei evitarlo, quindi sottoporrei ad Anna Vizzari il tema del chiedo la sospensione e mi segnalano la centrale rischi. Siccome ogni tanto torna nei messaggi, nelle richieste al forum, quello che abbiamo appunto avevamo aperto nei giorni scorsi con l'esperto risponde, insomma tornava sempre questo dubbio, ma non è che poi se chiedo la sospensione in qualche modo mi segnalano come cattivo pagatore? C'era questo sospetto che serpeggiava. In realtà, allora, la rata sospesa non è una rata pagata in ritardo, infatti su quella rata non vengono a essere calcolati interessi di mora o altre spese, quindi in realtà non ci può essere una segnalazione come appunto pagatore in ritardo di una rata o come mancato pagamento della rata. Quindi da questo punto di vista le segnalazioni, seppure ci fossero, sarebbero del tutto illecite. Certo. Anna Vizzari, magari possiamo ricordare gli ascoltatori anche nel caso in cui abbiano avuto l'ok da parte della banca che ha erogato loro il mutuo, abbiano l'ok ad avere questa sospensione, quanto dura questa sospensione e tra virgolette quanto costa, nel senso che noi chiaramente abbiamo in questo momento la sospensione della rata, ma non è che poi questa parte di mutuo che non versiamo per un tot di mesi ci viene abbonato, viene ripreso il pagamento, sì. C'è un onere successivo? Ecco, allora inizierei da questo perché è sicuramente la situazione è più spinosa. Allora, nel senso che se guardiamo la legge istitutiva del fondo, si dice che con la sospensione si provoca sostanzialmente un allungamento del piano di ammortamento del mutuo, per cui le rate non pagate vengono a essere pagate poi successivamente, ovviamente lungo la durata del mutuo che diventa più lunga. Queste rate, quando vengono riprese nel pagamento, non possono variare nell'importo. Quindi in realtà non potrebbero avere oneri aggiuntivi, interessi sulle rate sospese o nuove commissioni. Dovrebbero essere le rate uguali a quelle che abbiamo sospeso. Che cosa è successo però in passato? Che in effetti le banche, applicando la sospensione, hanno anche fatto pagare al cliente degli oneri finanziari, calcolati appunto sulla rate sospese in base alla quota interessi, che non era stata pagata dal cliente, spalmata sulle rate successive. Allora, da un avviso, questa diciamo, disposizione prevista dalle banche non ci dovrebbe essere, perché appunto la legge istitutiva dice che non è possibile cambiare l'importo delle rate, non è possibile applicare ulteriori commissioni. Peraltro ricordiamo che in questo caso il fondo statale interviene pagando anche la metà delle quote interessi delle rate sospese, quindi la banca un ristoro comunque lo avrebbe, appunto attraverso questi interessi compensativi. Quindi ci aspettiamo che in questo caso non ci siano degli oneri finanziari calcolati sulle rate sospese, che quindi ci sia soltanto un allungamento del piano di ammortamento. Qualche ascoltatore. Ci aspettiamo però, le dice. Ecco, sì. Ci aspettiamo, esatto. Deborah ha sintetizzato quello che stavo per dire in modo un po' più prolisso, cioè ci aspettiamo che sia questo, perché infatti qualche ascoltatore ci aveva segnalato e torna a segnalarci, però io ho chiesto, mi mandano documentazioni o mi avevano mandato ai tempi quando avevo chiesto documentazioni dove mi esibivano dei costi poi superiori, allora non è molto corretto, mi pare di capire, abbiamo chiarito, non è che queste rate ce le regalino. Le pagheremo più avanti, questo è il senso, giusto Vizzari? Assolutamente, nel senso che le rate sospese vengono comunque a essere pagate successivamente e il nostro mutuo durerà un po' di più appunto certo. Per compensare la sospensione. Quindi c'è in realtà c'è uno slittamento. Non è comunque corretto, guardando appunto la legge istitutiva del fondo, che vengano a essere applicati degli oneri finanziari aggiuntivi sulle rate sospese. Quindi non ci dovrebbero essere, però è chiaro che su questo ci sarà un contenzioso sicuramente, che speriamo di chiarire lavorando magari in questi giorni anche con le autorità di controllo, con la Consap, per dare una regolamentazione più specifica anche su questo aspetto. Diciamo che l'antitrust per esempio sta già lavorando su questi comportamenti confusi, notizie non chiare che le banche stanno già veicolando ai clienti, per cui sicuramente un intervento ci sarà. E infatti, Deborah, sai cosa ci scrive un ascoltatore su WhatsApp? Sì. 349-238-6666, siamo agli ultimi minuti ma avete ancora tempo, dice c'è una banca abbastanza grande, mi viene da dire, diciamo il peccato non il peccatore, mi chiede di inviare richiesta moratoria via PEC, posta elettronica certificata, no, però mi chiede di inviare anche una manleva per l'utilizzo della posta elettronica certificata e questa manleva la dovrei consegnare a mano oppure spedire per posta, insomma. Vizzari, viene da pensare che sia un pochino dilatorio questo comportamento, non vorrei essere offensivo. E poi ricordo che ieri nel provvedimento sempre rivolto alle imprese cioè è stata inserita una norma proprio sui contratti bancari in cui si prevede la possibilità di concludere o di fare le comunicazioni tra banca e cliente attraverso semplici email. Basta semplicemente allegare magari un documento di riconoscimento per far capire che comunque la persona che conclude il contratto è effettivamente cliente. Quindi c'è tutta una facilitazione in questo senso e la richiesta, in questo caso della manleva consegnata personalmente, è un po' insomma assurda. Insolita, per dire, certo, per dire una cosa. Vuoi sentire c'è che cosa un'altra... ci racconta Renata da Brescia, Deborah? Sì. Ah sì, scusami, non mi ero accorta delle telefonate in diretta, molto volentieri. Renata, buongiorno. Buongiorno, soprattutto perché viene da... no, da perché Brescia, soprattutto chiama da Brescia, zona... a cui siamo molto vicini. Esatto. Sì, una zona di... guardi, non ho parole perché ci sono cose tremende. Senta per gentilezza, volevo una fare una domanda. Allora, mia figlia è subentrata in un mutuo comprando casa di un appartamento che era stato erogato più dei 250 euro quando diciamo al padrone precedente. Sì, l'erogazione iniziale del mutuo era 270.000, è così quello che aveva segnalato? Più o meno, 269, sì. 270, quello esatto. Che era. Ma quando lei è subentrata era al di sotto dei 250 ed ha il contratto, tutto che ciò che dimostra. E quindi è fattibile lo stesso perché so che è massimo 250 l'erogazione. Il limite, certo. Certo, lei è correttamente informata, Renata. Lo chiediamo subito ad Anna Vizzari. Vizzari. Allora, diciamo che in questo caso vale il capitale erogato inizialmente, perché nel caso della cessione, diciamo così, del subentro, il contratto di mutuo non cambia, semplicemente viene a essere modificato l'interstatario. Quindi in realtà dovrebbe essere purtroppo esclusa la sospensione delle rate. Quindi in questo caso la figlia della signora Renata non può accedere a questo tipo di aiuto, a questo tipo di sospensione del mutuo. Può perché... chiedere altre moratorie, magari la banca, esatto, ha previsto altre modalità per poter venire incontro, insomma, anche in questo caso alla sospensione delle rate. Sì, anche perché era poco di poco superiore in realtà, ecco, non è che stiamo, infatti, parlando di un mutuo di milioni di euro. Deborah. Senti Mauro, mentre tu interagisci da studio e coordini la diretta egregiamente come sempre, io al contempo mi sto scrivendo su WhatsApp con la FABI, con la Federazione appunto dei bancari, e mi stanno commentando, ho chiesto io, ma la manleva, la posta certificata, vi sembra il caso? E mi rispondono, ma no, basta una mail semplice. Appunto. Per cui ecco, queste richieste un po' stravaganti da parte della banca lasciano il tempo che trovano, evidentemente qualcuno che forse prendono anche un po' tempo con queste modalità per dare una risposta, però ecco, speriamo che siano dei casi straisolati di un funzionario particolarmente solerte. Ma Vizzari, conviene, se appunto uno ha, diciamo, il fondato sospetto che la sua filiale stia perdendo tempo, conviene, che so, provare a rivolgersi alla direzione regionale, insomma, in qualche modo farsi aiutare da un'associazione di consumatori? Cosa si potrebbe fare se uno dice, beh, però qua mi stanno un pochino così portando in lungo, ecco. Allora, il consiglio che noi diamo è sempre di utilizzare comunque una sorta di reclamo per iscritto, quindi mai basarsi soltanto sulla telefonata, perché della telefonata purtroppo non resta traccia. Quindi parlare sempre via email, perché quella è prova. È chiaro che se poi il comportamento è un po' scorretto, ci potrebbero essere degli strumenti per fare poi delle segnalazioni anche alle autorità, anche aiutati alle associazioni di consumatori come Autoconsumo, però in realtà forse è anche una perdita di tempo ulteriore, cioè non è questa la soluzione. In realtà le banche dovrebbero essere più solerti in questo momento, venire incontro alle richieste dei clienti, anche perché ricordiamoci che il recupero crediti anche per la banca ha un costo, Quindi in realtà avere una persona che non paga le rate è comunque un costo anche per la banca. Dovrebbero avere interesse a risolvere queste questioni, ma in maniera anche rapida. Allora, Mauro, c'è ti dico, perché c'è un'altra questione di un'altra ascoltatrice che ci scrive, che un pochino ho letto con perplessità questa mail. Adesso io la giro ad Anna Vizzari molto volentieri, perché se c'è domanda da parte degli ascoltatori sono sacrosante le risposte. Però quello che voglio raccomandare anche ai consumatori: se avete in questo momento bisogno di sospendere la rata del mutuo, focalizzatevi sul raggiungimento di questo obiettivo, non state lì poi a chiedere alla banca se è possibile fare altre 25 operazioni con la stessa con lo stesso finanziamento. Isabella ci scrive: io voglio chiedere la sospensione del mutuo, ma contemporaneamente, se fossi anche interessata a chiedere la surroga ad altre banche, posso andare avanti? È chiaro che poi anche questa condizione ti mette in difficoltà. Con lo stesso mutuo? Non lo so, cioè, probabilmente sì, certo, però non credo diciamo che sia opportuno in questo momento. No. Allora, nel senso che un mutuo sospeso è comunque un mutuo che non è appetibile per un'ulteriore banca, che è quindi per un'offerta di surroga. Cioè, ricordiamo che la surroga non è un obbligo per la banca, fa parte della sua politica aziendale. Sulla surroga c'è comunque un'istruttoria, una valutazione da parte della banca. Quindi è chiaro che se uno ha fatto una richiesta di sospensione della rata del mutuo, risulta essere comunque un cliente non perfettamente in linea con il pagamento delle rate, e quindi è meno appetibile anche da parte di un'altra banca, e quindi per un'offerta di surroga. Quindi se si trova una surroga con un'offerta allettante che serve anche a ridurre le rate mensili, perché no? Proviamo e non facciamo la sospensione a questo punto. Certo, chiarissimo. Il buon senso, parola d'ordine. Allora, abbiamo 30 secondi prima della inesorabile chiusura. Naturalmente, Vizzari, lei è invitata a non lasciare il paese, perché... Deve restare a disposizione non solo le ordinanze statali e regionali, ma persino due di denari glielo impone. Debora, vuoi annunciare invece cosa ci occuperemo domani? Domani c'è la grande puntata ancora con Enzo De Fusco, tutte le tematiche legate agli ammortizzatori sociali, tutte le necessità dei lavoratori, domani troveranno una risposta dal mondo dei consulenti del lavoro. E poi, se volete, in edicola con il Sole 24 Ore domani, il focus dedicato ai sostegni per la famiglia. Grazie ad Anna Vizzari, grazie a tutti voi, grazie ad Andrea Roccabella e Lorenzo Nespoli in regia, e a Marco Lombardo. A domani.